Tu cosa proponi, per esempio, di diverso dagli altri? Perché la caratteristica di affari italiani è proporre sempre qualcosa di diverso rispetto, no, Sì, al abbiamo mondo. delle cose carine. Proprio a causa dell'assenza di notizie forti, stasera abbiamo aperto, devo dire, con un'anticipazione del settimanale A, Sì. che ha l'intervista al professore di Taricone, Sì. e descrive Roberto Mancini si un chiama. Taricone molto diverso da come lo conosciamo, un uomo che studiava, faceva lezioni private con questo docente, e che rivela fortissime passioni di tipo fascista. È stata una delle critiche che alcuni siti, anche siti antagonisti, hanno fatto a Taricone, devo dire, in maniera anche poco elegante, Sì, no, un po' al giorno. forte, sì. Ma in effetti egli dice che Mussolini era bravo e queste cose così. Ci è sembrato, visto che appunto di Taricone si è parlato tanto, in un giorno così la testimonianza è molto importante.